Benvenuti a un nuovo approfondimento. Allora, oggi analizziamo qualcosa che a prima vista sembra quasi una contraddizione. Parliamo di un'applicazione web, si chiama Storie Accoglienti. È pensata per un compito che è umanissimo, molto complesso, cioè narrare l'incontro tra culture, eppure la sua forma è, beh, quasi disarmante. Un singolo file HTML. Esatto. Un singolo file. Niente installazioni, niente cloud, niente login. Proprio così. E la nostra missione oggi è scavare dentro questa apparente contraddizione. Vogliamo capire la filosofia che si nasconde dietro una scelta così radicale, direi. Non ci limiteremo a descrivere le funzioni, ma cercheremo di capire il perché sono state progettate in questo modo. L'obiettivo è esplorare come uno strumento così minimale possa, insomma, affrontare la sfida di aiutare a raccontare storie potenti sull'integrazione. E per farlo, la nostra unica fonte è il manuale utente dell'applicazione stessa. Quindi faremo una specie di smontaggio guidato, mettendo in discussione ogni scelta. La domanda di fondo è: questa semplicità è un punto di forza o è un limite? Partiamo proprio da qui, allora, dal fatto che sia un solo file. Sembra quasi un anacronismo. Proprio così. La prima cosa che salta all'occhio è questa promessa di immediatezza. Fai doppio clic per aprirlo. Fine. In un'era di app pesantissime, di abbonamenti, questa scelta è quasi un atto di ribellione. Ma è solo una questione di accessibilità. È molto di più. È una dichiarazione di intenti, sai? Scegliere un singolo file HTML significa privilegiare l'universalità e la durata nel tempo. Cioè, funzionerà sempre. Beh, con ogni probabilità sì. Funzionerà oggi e tra 20 anni, su qualsiasi dispositivo che abbia un browser. Ma c'è un'implicazione ancora più profonda: l'autonomia di chi scrive. I dati, le storie, le personalizzazioni, tutto rimane sulla tua macchina. Ah, ecco. Non c'è un server centrale che raccoglie informazioni. È uno strumento che mette il controllo totale nelle mani della persona. E questo è cruciale quando si trattano temi che possono essere molto personali, molto sensibili. Capisco. Quindi la tecnologia fa un passo indietro per non essere un ostacolo e neanche una potenziale minaccia alla privacy. Molto interessante. Allora, entriamo nel vivo dell'applicazione. Il manuale la descrive come suddivisa in tre ambienti. Sì. Ora, a me questo suggerisce un approccio molto strutturato alla creatività, che per alcuni potrebbe suonare come un controsenso, no? Non si rischia di ingabbiare l'ispirazione. Questa è la domanda centrale e per rispondere dobbiamo vedere come questi tre ambienti lavorano insieme. Il primo, stesura home, è volutamente il più semplice possibile. Un foglio bianco. Praticamente sì, un editor di testo, il tuo foglio bianco digitale. Le uniche funzioni evidenti sono archivia e stampa, cose basi, universali, che ti permettono di salvare il lavoro in formati standard come Markdown o PDF. Niente fronzoli. Ok, archiviazione stampa, funzioni standard, ci siamo. Ma è il secondo ambiente, scaletta e struttura, che mi incuriosisce di più. Perché qui lo strumento smette di essere passivo e inizia a suggerire, a guidare. Esatto. Il manuale distingue tra scalette narrative e situazioni narrative. Che cosa implica questa distinzione? Implica una comprensione del processo creativo, cioè non tutti hanno bisogno dello stesso tipo di aiuto. Le scalette narrative sono per chi ha un'idea, magari, ma non sa come strutturarla. Offrono un arco completo, uno scheletro. Dall'inizio alla fine. Proprio. Le situazioni narrative, invece, sono più piccole, sono, come dire, delle scintille, una scena, un dialogo, un momento. Sono pensate per chi magari è bloccato a metà racconto o vuole solo fare un piccolo esercizio per sbloccarsi. Quindi è un aiuto a diversi livelli, più o meno granulare. Esatto, capisco. E il meccanismo con cui si interagisce è questo tasto, prendi. In pratica scegli una scaletta e la copi nel tuo editor. Mi chiedo, non è solo un modo un po' più elegante per chiamare un template? È un trucco psicologico per superare la paura della pagina bianca. È esattamente un trucco psicologico, ma nel senso più nobile del termine. La pagina bianca è paralizzante, no? Presenta infinite possibilità. Il tasto prendi non ti dà una storia finita, ti dà un punto di partenza, riduce le possibilità a un percorso che puoi gestire. Ok, ma la cosa fondamentale è che quella struttura non è sacra. Anzi, il manuale incoraggia a modificarla, a stravolgerla. Ci sono i tasti correggi e aggiungi proprio per questo. Puoi adattare le strutture o crearne di nuove. È un'impalcatura che puoi smontare e rimontare come vuoi. E queste personalizzazioni, queste nuove impalcature che creo io, dove finiscono? Vengono salvate nella local storage del browser. Possiamo immaginarla come un piccolo armadietto privato che il browser riserva solo per questa applicazione. Ah, quindi quando torno le ritrovo. Esatto. Quando torni, i tuoi attrezzi personalizzati sono lì dove li avevi lasciati. Nessun altro può vederli e non vengono spediti su internet. Nel tempo, lo strumento si adatta a te, diventa un archivio del tuo modo di costruire storie. Va bene. L'idea della struttura personalizzabile mi convince. Però una storia non è solo struttura. E qui entra in gioco il terzo ambiente, materiali, dettagli. Sì. Qui troviamo liste di personaggi, ambienti, oggetti. E qui, devo dire, le mie perplessità tornano. Leggo esempi come il medico senza confini o la mediatrice culturale. Non c'è il rischio che questi archetipi, invece di aiutare, finiscano per incoraggiare la scrittura di, beh, di cliché, di stereotipi? Il rischio esiste e un punto critico non si può negare. La filosofia dello strumento, però, sembra essere quella di fornire dei semi narrativi, non personaggi finiti. Dei semi, sì. La mediatrice culturale non è un personaggio, è un ruolo, un punto di partenza. La sfida per chi scrive è proprio quella. Prendere questo seme e farlo germogliare in qualcosa di unico, di complesso, magari sovvertendo le aspettative. E lo stesso vale per gli oggetti, come valigia di cartone o coperta termica. Sono oggetti potentissimi, quasi dei simboli. L'intento non è usarli come una lista della spesa, ma come catalizzatori di emozioni, di ricordi. Capisco. Quindi l'applicazione ti fornisce i mattoncini, i Lego, diciamo, ma la responsabilità di costruire qualcosa di originale resta interamente a chi scrive. È un equilibrio delicato. Molto delicato. Vedo che anche qui si usa la funzione prendi per spostare questi elementi nel testo. Esattamente. Il flusso di lavoro è lo stesso. Navighi, scegli un ingrediente e te lo porti sul piano di lavoro. Ok, a questo punto abbiamo i pezzi sul tavolo. Le fondamenta dalle scalette, i mattoni e le decorazioni dai materiali. Sembra quasi un kit di montaggio creativo. Qual è il flusso di lavoro che il manuale suggerisce per assemblare tutto? Il manuale delinea un processo molto logico. È quasi una ricetta per trasformare il caos in una bozza. Vediamo. Primo, partire dalle fondamenta. Vai in scalette e scegli una traccia. L'esempio del manuale è 4, 2 lingue, un pane. Con il tasto prendi, questa struttura finisce nell'editor. E la pagina non è più bianca. Primo passo fatto. Secondo, popolare il mondo. Ti sposti in materiali, scegli un paio di personaggi, un ambiente, qualche oggetto significativo e comprendi, li aggiungi al testo, magari in una sezione di appunto in fondo. A questo punto, e questo è il passaggio cruciale, torni in stesura e la situazione è cambiata radicalmente. Non hai più il vuoto, ma una traccia da seguire. Dei protagonisti, un luogo, degli oggetti. Il compito creativo si trasforma. Si trasforma. Non è più inventare dal nulla, ma diventa collegare i punti. Scompone l'atto creativo in fasi più digeribili. Ideazione della struttura, raccolta dei dettagli e solo alla fine la scrittura. È un approccio che cerca di addomesticare l'ispirazione. Ma c'è un ultimo elemento, il più moderno e forse il più controverso. L'integrazione con un'intelligenza artificiale. Sì, ed è implementata in un modo che è perfettamente coerente con la filosofia privacy first di cui parlavamo all'inizio. Lo strumento è Ollama. E la cosa fondamentale da capire è che Ollama fa girare i modelli di intelligenza artificiale in locale, sul proprio computer. E questo in pratica significa che nulla di ciò che scrivo viene inviato a un server di terze parti, niente viene usato per addestrare altri modelli. Assolutamente niente. La tua storia rimane tua. È la differenza tra avere un assistente di scrittura seduto accanto a te nella tua stanza e urlare le tue idee in una piazza affollata. Per temi delicati come l'accoglienza, questa garanzia di privacy non è un dettaglio, è fondamentale. Immagino però che questo richieda una certa preparazione tecnica. Ecco, quando leggo «è necessario abilitare una cosa chiamata CORS», le mie antenne da utente non tecnico iniziano a vibrare. È complicato, c'è il rischio di fare danni. È un'obiezione legittima. Il CORS è, in parole povere, un meccanismo di sicurezza che impedisce a un sito web di parlare con programmi sul tuo computer senza permesso. In questo caso, dobbiamo dare il permesso a storie accoglienti di parlare con un lama. Ok. Il manuale, riconoscendo che non tutti sono, diciamo, smanettoni, suggerisce la via più semplice. Installare un'estensione per il browser. Ce ne sono diverse che, con un singolo clic, attivano e disattivano questa autorizzazione. Quindi una soluzione a prova di errore. Praticamente sì. Clicchi, si accende, lo usi. Riclicchi, si spegne e tutto torna come prima. Non si rischia di rompere nulla. Ok, mi hai rassicurato. Una volta superato questo piccolo scoglio tecnico, come funziona l'interazione con l'AI? Cosa fa concretamente Olama dentro la storia? Nell'ambiente di stesura appare un pulsante. Chiedi a Olama di continuare. Funziona in modo molto intuitivo. L'AI legge tutto il testo che hai già scritto, la scaletta, gli appunti sui personaggi, le prime frasi, e genera un possibile proseguimento. Ah, non scrive la storia al posto mio, quindi. No, per niente. Agisce come un partner di brainstorming instancabile. Se sei bloccato, se non sai come descrivere una scena o far andare avanti un dialogo, lui ti offre una bozza, un'idea, una possibilità. Poi sta a te tenerla, a modificarla o a buttarla via. È un amplificatore di creatività, non un sostituto. Un assistente creativo privato e offline. Il cerchio si chiude, la tecnologia c'è, ma resta sempre sotto il controllo dell'utente. A questo punto l'ultima domanda pratica. Abbiamo scritto, personalizzato, usato le AI. Come ci assicuriamo di non perdere tutto questo lavoro? Il sistema di salvataggio, come dicevamo, è duplice. Da un lato c'è il salvataggio attivo della storia. Quando sei soddisfatto, premi Archivia e scarichi sul tuo computer un file di testo. Questo è il tuo manoscritto, al sicuro. Dall'altro c'è il salvataggio passivo delle personalizzazioni. Le nuove scalette, i personaggi che finiscono nell'armadietto privato del browser, la local storage, e persistono, rendendo l'ambiente di lavoro sempre più tuo. Bene, il quadro mi sembra chiaro. Storie accoglienti non è solo un editor di testo, è un sistema con una filosofia precisa: abbattere le barriere tecniche e psicologiche alla scrittura, attraverso una struttura a mattoncini e un'assistenza AI che rispetta la privacy. Ma alla fine di questa analisi, cosa ci rimane? Qual è il nocciolo della questione? Ciò che emerge con forza non è tanto lo strumento in sé, quanto l'idea di creatività che propone. Non è l'idea romantica del genio solitario che attende l'ispirazione divina, no. È un'idea più artigianale, quasi pragmatica. La creatività come un processo che può essere aiutato, strutturato, sbloccato con gli attrezzi giusti. In un mondo di software sempre più complessi, questo ritorno all'essenziale, a un singolo file offline, ci costringe a riflettere su cosa ci serve davvero per creare. Una sorta di minimalismo digitale applicato alla scrittura. Proprio così. E da qui nasce la riflessione finale, la domanda che questo strumento ci pone. Sappiamo che una struttura può essere un'ancora di salvezza contro il caos, ma dove si trova quel confine sottile oltre il quale quella stessa struttura diventa una gabbia che produce storie tutte uguali? E l'introduzione di un partner come l'intelligenza artificiale, anche se privato e controllato, come cambia la nostra relazione con il processo creativo? Non rischia di diventare una stampella che atrofizza la nostra capacità di superare gli ostacoli da soli? Ecco, questo equilibrio tra guida e libertà, tra assistenza della macchina e sforzo umano, è forse la vera storia che Storie Accoglienti ci invita a scrivere.